La sofferenza è l'esperienza più comune cosparsa nel creato. Le piante soffrono, anche se non è una sofferenza consapevole. Gli animali soffrono, anche se non è una sofferenza razionale. Le persone soffrono con una coscienza consapevole e razionale. Di sofferenze ce ne sono di vari tipi, come, per esempio, quella naturale, quella giusta e quella ingiusta. La sofferenza dovuta all'astinenza è quella cristiana. Non vi sono grandi disaccordi nell'individuare i primi quattro tipi di sofferenza, mentre la sofferenza cristiana è oggetto di confusione e purtroppo di strumentalizzazione da parte di alcuni religiosi che si definiscono cristiani. Che la vita cristiana sia cosparsa di sofferenze non è una novità. Il medico Luca, nel descrivere la vita di Paolo e dei suoi compagni, scrisse quanto segue. E, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Atti 14.21. Le molte afflizioni alle quali si riferiva Paolo non erano solo quelle che si ricevono causa la fedeltà al Vangelo, ma anche quelle che si hanno nel rifiutare una vita dissoluta. Lo mette in evidenza l'apostolo Pietro nella sua prima lettera. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi, infatti, il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. 4.13. Dunque il cristiano deve mettersi nell'animo che è chiamato a soffrire su tutti i fronti. Soffre perché la vita è cosparsa di sofferenza, soffre perché porta le conseguenze dei suoi errori, soffre perché riceve dei torti, soffre perché rinuncia al peccato e soffre perché è un cristiano. Chi desidera vivere in modo pio respirerà la sofferenza come respira l'aria, accetterà persecuzioni e tribolazioni come norma della vita sia da parte degli increduli che da parte di coloro che professano una fede in Cristo. Purtroppo nel campo religioso la sofferenza viene strumentalizzata come mezzo per piacere alla propria divinità. In molte religioni orientali e africane, durante i riti celebrativi, le persone soffrono, affliggendo il proprio corpo fino a spargere del sangue. Più si soffre, più si pensa di essere graditi alla divinità. Nulla di nuovo, perché leggiamo anche al tempo del profeta Elia che i falsi profeti, meno terrore, che oggi non sarebbero poi falsi, meno si misero a farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze, finché grondavano sangue. 1 Re 18.2728. Ma il Dio Trino odia queste cose perché nella sua legge aveva detto espressamente: i sacerdoti non faranno tonsure sul loro capo, non raderanno gli orli della loro barba e non faranno incisioni nella loro carne. Levitico 21.5. Dunque il Dio delle Scritture odia la sofferenza fine a se stessa, odia quella sofferenza che ha lo scopo di essere graditi a Lui. Eppure, nonostante questo, nel mondo religioso del cattolicesimo si è fatto della sofferenza uno strumento per ottenere favori e grazia da Dio. Vi sono persone che durante le processioni infliggono sofferenze al proprio corpo, come quelli che vengono chiamati pagani, per non parlare delle sofferenze che ogni giorno milioni di persone offrono a Maria, ai santi, a Cristo e a Dio per meritare il paradiso o grazie di ogni genere. Non vi è nulla di più spregevole agli occhi di Dio. Queste non sono le sofferenze di Cristo. Quando il Papa Paolo Giovanni II si ammalò di quella malattia che doveva portarlo alla morte, tutto il mondo cattolico vedeva in lui un uomo che portava le sofferenze di Cristo, e per questo il popolo proclamava di farlo santo subito. Ma Paolo Giovanni II era semplicemente un uomo che si stava spegnendo secondo la legge della natura, e per lui era giunto il momento della morte. Attribuire le sofferenze di Cristo a difficoltà e tribolazioni che fanno parte della vita comune a tutti è stravolgere il pensiero di Dio e idealizzare concetti cristiani. Ciò che inganna chi ha una fede cattolica romana è il concetto che essere cristiani vuol dire soffrire. Così le regole morali e le pratiche religiose che contengono una qualche sofferenza vengono accettate gioiosamente, ma non si rende conto che queste sofferenze non sono altro che surrogati della verità. Salire sugli scalini in ginocchio, fare penitenza, incidere a sangue il proprio corpo, fare lunghe orazioni per espiare delle colpe, non sono le sofferenze di Cristo, ma il risultato di una cultura religiosa, simile a quella dei pagani che non conoscono né il vero Dio delle Scritture né Gesù Cristo. Se si parla delle sofferenze di Cristo è perché questa espressione si trova nella bocca degli apostoli. Dio ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. 2 Corinzi 1.35. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 1 Pietro 4,13. Non a tutti appare evidente, ma una certa sofferenza, prima ignota e senza una specifica collocazione, ora viene definita come sofferenze di Cristo. E questo perché queste sofferenze sono la conseguenza di una fedeltà a Cristo, o quelle sofferenze che affliggerebbero Cristo se fosse sulla terra. Le sofferenze di Cristo non sono quindi le naturali difficoltà della vita e della convivenza, ma sono il risultato della verità quando si scontra con l'errore, della luce quando illumina le tenebre, di Cristo che abita nel credente quando denuncia la malvagità. Ancora una volta il cattolicesimo romano ha stravolto un concetto cristiano per farne un uso religioso, interpretando una dichiarazione di Paolo in modo errato. Del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il contrassegno del Signore Gesù. Galati 6,17. Dato che in greco ciò che abbiamo tradotto con contrassegno è il vocabolo stigmate, di tanto in tanto alcuni fedeli religiosi cattolici romani dichiaro di avere le stigmate di Cristo, intendendo con questo che sono partecipi delle sofferenze di Cristo. Generalmente queste stigmate sono ferite che si hanno sulle mani e suppurano sangue come Cristo che ebbe le mani forate dai chiodi. Ma una simile associazione è del tutto arbitraria, perché Paolo, quando parlava di stigmate, si riferiva alle cicatrici inflittegli dai persecutori a causa della sua costante fedeltà a Cristo. In definitiva, il cattolicesimo ritiene le sofferenze di Cristo anche le malattie che possono colpire un essere umano, ma se chi ne è colpito è una persona particolare, allora ciò che è naturale si trasforma in miracoloso e divino, dando prova ancora una volta come il cattolicesimo romano sia alla ricerca dell'esoterico per un prestigio personale. Questa tendenza fa del cattolicesimo una religione con molti elementi pagani. Quali sono allora le sofferenze di Cristo? Le sofferenze di Cristo consistono nel seminare l'Evangelo con lacrime, Salmo 126, nell'essere fruttuosi, Luca 8.15, perché si cerca di piacere a chi ci ha assoldati, 2 Timoteo 2.3, si soffre per rinunciare a un diritto, 1 Corinzi 9.12, o per ricevere del male piuttosto che farlo, 1 Corinzi 7. E tutti quegli atti e quelle parole che ci fanno rinunciare alle nostre corrotte inclinazioni umane, Luca 9.24. Ma vi è di più, cosa dire di coloro che nella vita fanno una scelta sbagliata come la scelta di un coniuge, di un aborto o di aver svolto attività illecite? Vi sono errori che in parte si possono rimediare, ma altri non è possibile. Il tormento di un aborto può inseguire una donna per tutta la vita, come un matrimonio contratto con una persona di un'altra fede può causare seri problemi finché morte non li separi. Come diagnosticare le sofferenze che giorno dopo giorno un figlio di Dio si trova ad affrontare? Perché ha sbagliato e porta le conseguenze dei suoi errori? Sono queste le sofferenze di Cristo oppure no? Non sono certamente le sofferenze di Cristo quando si portano le conseguenze dei propri errori, ma possono diventarlo se il credente accetta con sottomissione ogni situazione positiva e negativa da parte di Dio, se vede le difficoltà uno strumento per farlo partecipe della gloria di Cristo, se l'amore di Cristo che abita in lui lo esprime sempre e comunque. Il Dio dei cristiani è più grande degli errori dei suoi figli, ed egli sa trarre il bene dal male, sa rendere vantaggiosa ogni cosa per coloro che lo amano. Un errore umano non invalida l'amore e i piani di Dio. Questa è la grande fiducia che hanno i cristiani nel Dio, Trino che si è rivelato. Perciò il cristiano fiducioso, nonostante abbia difficoltà e preoccupazioni, vive con un cuore sereno, felice e riconoscente, sapendo che le sofferenze nelle quali si trova sono le vere sofferenze di Cristo, sofferenze che non ritiene valide ai fini di meritare qualcosa o la vita eterna, ma utili ai fini di ottenere il premio che Dio ha preparato a coloro che lo amano. L'apostolo Paolo, che di sofferenze ne aveva, scrisse ai credenti di Colosse: «Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa», Colossesi 1:24. Le sofferenze di Cristo sono tali quando sono ragione di allegrezza, quando si considerano come facenti parte del piano di Dio e quando le riteniamo utili per la Chiesa. Ciò che rende difficile accettare la sofferenza è la sua inutilità, ma quando in essa si vede uno strumento di bene, allora è saggio evitare le sofferenze inutili per accettare con gioia la sofferenza di Cristo. Febbraio 2006. Ellerop.